24 mattino. Eccoci qui alle 8 e 16 minuti, ben ritrovati. 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Parliamo un po' di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Eccoci. Abbiamo sistemato tutto. Le cuffie come sì. Al solito. Allora, oggi parliamo del 16 giugno, che è una data importante sì. Per scadenze fiscali che molti italiani devono tenere a mente. Perché? Perché ad Oxford direbbero today is the tax day, a Roma direbbero c'è da pagare, caro Alessandro. E insomma, facciamo il punto sulle scadenze fiscali in agenda oggi, e per farlo stamattina abbiamo scomodato Claudio Siciliotti, che è il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Presidente, buongiorno e benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, tutti i contribuenti ritardatari devono ricordare che oggi è l'ultimo giorno utile per il versamento delle imposte risultanti dal modello unico e il versamento dell'acconto ICI. Dividerei la nostra intervista, Presidente, in queste due grandi tranche, se lei è d'accordo, e comincerei proprio dal modello unico. Quali sono i contribuenti che presentano questo modello e che differenza c'è con il tradizionale e più noto modello 730, Presidente? Ma intanto, guardi, la definizione tax day alla fin fine è più mediatica che reale. È vero che oggi è l'ultimo giorno per presentare il modello unico, ne tratteggeremo le principali caratteristiche, ma in realtà questo è un paese in cui le tasse si pagano tutto l'anno. Non ce lo ricordi in questa maniera, Presidente, che è già difficile alle 8:15 del mattino trattare questo argomento. È un po' così, forse serve per alleggerire il 16 giugno. E questo è un paese in cui c'è un acconto a novembre che ha raggiunto ormai il 100% dell'imposta dovuta, anche se quest'anno è stata lievemente ridotta in considerazione della crisi. Quindi in realtà si pagano un po' sempre. Detto questo, oggi è l'ultimo giorno per versare le imposte sui redditi, quindi IRPEF e IRES e IRAP per tutti i contribuenti che presentano il modello unico, con la sola eccezione di quelli che devono presentare gli studi di settore. Questo oggi si versa il saldo del 2008 e un primo acconto pari al 40% circa per quanto riguarda il 2009. Presidente, perché chi presenta il modello unico fa questo versamento teoricamente oggi, anche se poi vedremo c'è tempo in realtà fino a metà luglio? Perché, per esempio, le faccio questa domanda: io che ho fatto il 730, in realtà l'azienda mi ha già consegnato il cosiddetto prospetto di liquidazione e so che io regolarizzerò la mia posizione con il fisco con lo stipendio di luglio. Invece sì. Per chi presenta unico deve farlo oggi, per quale motivo? Deve farlo oggi perché non ha un sostituto di imposta che lo faccia al posto suo, quindi deve fare i conti per suo conto e oggi versa. È vero, come lei ha ricordato, che sì, è l'ultimo giorno per modo di dire, c'è la possibilità, ripeto, per i soggetti che devono presentare gli studi di settore e sono tutti coloro che hanno un'attività di lavoro autonomo oppure un'attività di impresa che ha avuto nel 2008 un volume d'affari inferiore ai 7,5 milioni di euro, e non è una platea piccola, sono circa il 96% delle partite IVA italiane. Bene, questi, in considerazione dei ritardi che hanno contraddistinto il rilascio dei programmi collegati alla revisione degli studi di settore per effetto della crisi, questi possono andare al 6 luglio. Senza peraltro alcuna maggiorazione. Senza alcuna maggiorazione. Da lì scattano altri 30 giorni per tutti e quindi diventa il 16 luglio per quelli non soggetti agli studi di settore e il 5 agosto per quelli che vi sono soggetti, per versare con una maggiorazione dello 0,40%. È una maggiorazione che sembra minima, ma in realtà è uno 0,40 ragguagliato al solo mese di ritardo e su base anno è quasi 5%. Quindi è sicuramente qualcosa di significativo. Per chi presenta una dichiarazione, definiamola così, molto semplice, quest'anno si è potuto avvalere della facoltà di presentare il modello unico mini. Sì, questa è la novità forse più significativa di quest'anno. Anche qui più annunciata che poi effettiva, sono soggetti sostanzialmente assimilati ai dipendenti, senza che vi sia alle loro spalle un sostituto d'imposta che gli permetta di fare il 730. Sono, diciamo, golf, badanti, giardinieri, sono, diciamo, tematiche abbastanza limitate. Il dato di fondo, e credo che questo su cui sia giusto fare delle riflessioni, è che la strada per la semplificazione degli adempimenti tributari, una situazione in cui il contribuente sia di fronte all'Agenzia delle Entrate senza intermediari, è ancora lontana. Uh-huh. Potrei dirlo io con soddisfazione, perché alla fin fine sono i commercialisti che fanno questo lavoro. In realtà noi siamo sulla strada della semplificazione, riteniamo che dalla semplificazione possano derivare benefici all'intero paese, ai professionisti compresi, e quindi il percorso che potremo fare con l'Agenzia delle Entrate per trovare tutte le soluzioni idonee ad avvicinare il fisco, per quanto possa essere possibile, al contribuente, ci vedono sicuramente alleati. Anche se poi mi hanno spiegato alcuni suoi colleghi, Presidente, che in realtà questa formula mini non è stata utilizzata quest'anno da molti contribuenti, giusto? Infatti non era, e in realtà è proprio così, non è stata molto utilizzata. Tenga presente, ancora sulla strada della semplificazione, il modello unico è un modello da 153 pagine, quindi cioè il mini lo è di 4, ma ne ha 20 di istruzioni. Quindi, i coraggiosi si scoraggiano. Abbiamo fatto dei passi in avanti, ma forse ancora pochi. Ecco, forse mi permetta di dire solo una cosa che riguarda pochi contribuenti, ma mi sembra un discorso di giustizia che è giusto fare anche in una trasmissione come questa, la situazione dell'Abruzzo. Come lei sa... parleremo tra l'altro fra qualche minuto con il collega Alessandro Milan. Ecco, allora la situazione è questa. All'indomani del sisma si è detto tutti coloro che risiedono nella provincia dell'Aquila avranno la sospensione dei pagamenti fino a novembre. Successivamente è intervenuto il cosiddetto decreto Bertolaso, quindi ha individuato i comuni del altrettanto cosiddetto cratere come quelli effettivamente danneggiati e ha escluso gli altri che pure facevano parte della provincia dell'Aquila. Risultato, praticamente sono molto pochi i contribuenti che sono stati totalmente esentati al momento. Però devo dire la verità, tanto valeva, facciamone un discorso di giustizia, se la scelta poteva essere fatta in maniera diversa, ma doveva essere fatta dall'inizio. Oggi questi devono versare entro il 16 luglio e obiettivamente questi pochi contribuenti, Avezzano e Sulmona sono i comuni particolarmente colpiti, sono sicuramente pochi, ma hanno di fronte delle gravi difficoltà che forse sarebbe stato giusto considerare. La ringrazio, Presidente, per aver fatto questo commento anche su queste persone decisamente sfortunate. Io però dobbiamo ritornare un po' nel seminato del nostro Soldi e Dintorni, ci rimane un minuto e mezzo di tempo circa, allora diamo anche il vademecum ai contribuenti in ascolto per mettersi in regola con l'acconto ICI di quest'anno, che ricordiamo comunque non è più dovuta per l'abitazione principale. Presidente, mi dica, oggi si versa al 50% dell'acconto ICI dovuto per il 2009, come lei ha ricordato l'ICI è stata abolita sugli immobili che costituiscono l'abitazione principale del contribuente, ma evidentemente rimane in vigore per tutti gli altri immobili, come quelli commerciali, oppure le seconde o terze, quarte, beato chi ce l'ha, case. E castelli e quant'altro, sì. Sì, castelli, fermiamoci qua forse, sì, infatti in giorni come questi. E la scadenza del 16 giugno è la stessa per tutti i contribuenti, il saldo alla fine di dicembre. Ecco, le modalità di pagamento rimangono le stesse degli altri anni, anche se appunto l'imposta è stata abolita per l'abitazione principale? Certo. Modalità di pagamento sono le stesse, per cui bollettino postale, oppure si può utilizzare la delega modello F24? Sì, esattamente così. Presidente, io la ringrazio per essere stata con noi e le auguro una buona giornata. La lascio a questa giornata appunto di scadenze per molti contribuenti. Sono sicura che in realtà qualche ritardatario arriverà sicuramente anche a bussare alla sua porta stamattina. Buona giornata. Grazie a lei e di nuovo a tutti. Grazie a Claudio Siciliotti, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Alessandro. Eccoci qua, alle 12, Salva Donaio. Ritorniamo a parlare delle tariffe RC auto, è sempre, come dire, una questione che fa arrabbiare un sacco di consumatori, perché le associazioni dei consumatori sostengono che continuano ad aumentare. Le compagnie delle assicurazioni continuano a sostenere invece che la tendenza è contraria e noi proprio non riusciamo a dipanare questa matassa, Alessandro. È un po' così in Italia. Sono le 8:31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Uno sguardo alle notizie in primo piano. In Iran sarebbero 7 i civili uccisi ieri a Teheran nel corso della manifestazione a sostegno di Mousavi, sconfitto alle presidenziali. Lo ha riferito Radio Payam e oggi è prevista una nuova manifestazione. E ieri alla Casa Bianca, incontro di un'ora e mezza tra Silvio Berlusconi e il presidente americano Obama, si è parlato del G8 e Berlusconi ha anche promesso 600 soldati da mandare in più in Afghanistan. L'Italia inoltre accoglierà 3 detenuti del carcere di Guantanamo quando verrà chiuso. In Italia alcuni mafiosi trapanesi detenuti al 41 bis riuscivano a far arrivare all'esterno del carcere messaggi diretti anche al latitante Matteo Messina Denaro. Il particolare emerge nell'inchiesta Golem, che da stamattina all'alba sta portando all'arresto di 13 persone. Infine il calcio, esordio con vittoria per l'Italia di Lippi alla Confederations Cup in Sudafrica. Gli azzurri hanno battuto 3-1 gli Stati Uniti, erano in svantaggio, poi ha risolto una doppietta di Giuseppe Rossi e un gol di De Rossi. Vince anche il Brasile con un sofferto 4-3 sull'Egitto. E allora alle 8:32 minuti, era questa l'ultima notizia, 349-238-6666. Come sapete, come abbiamo sentito nel GR, c'è molto fermento per quello che è il terremoto in Abruzzo, 6 aprile. C'è un decreto che è approvato al Senato, approda oggi alla Camera in discussione e ci sono delle proteste. Io tra l'altro vorrei andare proprio all'Aquila, voglio salutare Mattia Lolli, ci sente? Ciao, buongiorno. Mattia Lolli, allora, uno degli animatori del comitato 332, per telefonarle abbiamo dovuto usare un altro cellulare perché la stanno tempestando di telefonate sul suo cellulare, perché sta organizzando i pullman per andare a Roma, a Piazza Montecitorio, al Parlamento a protestare. Perché protestate? Ma noi protestiamo innanzitutto per dare un primo segnale, perché quello che è successo per questo decreto è gravissimo, in quanto si sottovaluta totalmente il problema e i danni che ci sono qua all'Aquila. Si sta cercando di far passare al di fuori della città il messaggio che qui è tutto risolto, che va tutto bene, la ricostruzione procede tutto a gonfie vele. E cosa più grave è che gli aquilani sono contenti. In realtà qua la gente non è assolutamente contenta, perché non è stata coinvolta minimamente nella determinazione delle scelte e la ricostruzione. Tutte le scelte a partire dal piano case sono state imposte dall'alto senza consultare la popolazione, ed è da settimane che ripetiamo che questo decreto è assolutamente insufficiente. Non che, ci cosa, sono i soldi che cosa nel per decreto? Le seconde case. Ecco, cos'è che nel decreto non vi sta bene? Perché lei sa che le seconde case, ancora ieri, tra poco sentiremo la voce di Bertolaso che è intervenuto a 8:30, il Palazzo Chigi, la sede del governo, ha detto ribadiamo che anche le seconde case verranno al 100% coperte come lavori di ristrutturazione. Che cosa in concreto non vi sta bene, che non c'è secondo voi previsto? Le televisioni, noi vogliamo i fatti a questo punto, perché all'inizio siamo stati in silenzio ad aspettare nella fase dell'emergenza, ma appunto mettendoci nelle mani delle autorità che hanno commissariato la città, perché è giusto fidarsi appunto di chi arriva a darti una mano. Però siamo stanchi a questo punto delle promesse, vogliamo i fatti. Nel decreto non ci sono i soldi, è inutile continuare a dire che si faranno e si faranno attraverso le ordinanze. Se non siamo stupidi, sappiamo che le ordinanze non possono stanziare ulteriori fondi. Se il problema è che i fondi non ci sono, si dicesse, si affrontasse un discorso serio con la popolazione locale. I fondi si possono reperire, per esempio, rinunciando all'acquisto di questi fantomatici F-35 che costano 13 miliardi di euro allo Stato. Penso siano più utili le case degli aquilani in questo momento. Senta, quindi quanti... si parlasse con chiarezza, i soldi non ci sono, si dice. Quanti pullman siete? Quanti sarete che state per partire? Avete fatto una stima? Siamo tra l'Aquila e la costa, perché sappiamo che la popolazione aquilana è divisa tra le tendopoli qua all'Aquila. Sì. E la costa, siamo all'incirca 20 pullman. Quindi contiamo di essere migliaia oggi, perché contiamo anche sull'appoggio di tanti aquilani che sono a Roma e di tutti i cittadini che vorranno appoggiarci per solidarietà. Allora, stia con noi, Mattia. Forti e gentili sì, ma fessi no. Forti, questo è lo slogan. Forti e gentili, com'è? Esatto. Ce lo ridice? Forti e gentili sì, fessi no. Forti e gentili sì, fessi no. Stia con noi Lolli, perché io voglio spostarmi proprio idealmente alla Camera. Ci sono due deputati con noi, voglio salutare l'onorevole Angelo Alessandri della Lega Nord, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei, onorevole Alessandri, è stato ieri all'Aquila, presidente della Commissione Ambiente di Montecitorio, dove si discute il decreto. E voglio salutare Pierluigi Mantini dell'UDC. Mantini, buongiorno. Buongiorno. Deputato aquilano. Ma lei è in sciopero della fame, vero? Leggo. Sì, sono al settimo giorno di digiuno, diciamo che è un digiuno, di speranza. Digiuno di speranza. Non ne avevo visto grandi notizie, insomma, di questo. Lei è deputato. No, hanno aderito 100, 110 persone, che ringrazio. Lei è deputato aquilano, ci spiegherà tra poco perché, però onorevole Alessandri, prima partirei da lei, insomma, come esponente della maggioranza, a dire questo decreto mi pare non si cambia al momento. Perché queste proteste, che ancora ieri Bertolaso ha detto non hanno senso, è solo una questione di scarsa informazione? Allora, questi soldi ci sono o no? Vedere quali sono le priorità. I soldi per fare le priorità ci sono tutti. Ci sono circa 8 miliardi di euro reali che servono per fare soprattutto la messa in sicurezza dell'Aquila e degli altri paesi intorno. Questi servono tutti. Oggi, anche se avessimo 30 miliardi di euro messi nel decreto, non li potremmo neanche spendere. Bisogna ancora fare tutti i preventivi, bisogna ancora fare la messa in sicurezza, bisogna fare i consolidamenti, poi dopo, vedendo quelli che vanno abbattuti, quelli che vanno consolidati, vedere quanti soldi serviranno. Tutte queste cifre, tutte queste cose ancora neanche ci sono e neanche si sanno. Io ricordo, ho guardato proprio ieri, una rassegna di tutti gli altri eventi calamitosi, penso anche all'ultimo terremoto dell'Umbria, addirittura l'allora governo Prodi mi sembra arrivò dopo 8-9 mesi a fare il primo decreto, e comunque dopo 2 anni arrivarono i soldi consistenti, perché nel primo c'era solo 1 miliardo di euro che a fine servì solo per l'emergenza. Sì. I soldi non è che servono in questo momento subito, in questo momento servono degli impegni veri, che ci dicano che quando poi ci sono da fare le ristrutturazioni, ci sono da fare le messe in sicurezza, c'è da fare tutto, i soldi si verranno trovati. Quindi lei dice non servono adesso. Io ho visto ieri, ho visto in questi mesi, in questi 2 mesi, ho visto una grande attenzione da parte del governo, che è presente, che stanno da fare, che sta correndo come un matto. Sì, ma questa l'attenzione non è stata negata da nessuno, anche le stesse persone che vengono a Roma probabilmente dicono c'è stata una grande presenza. Forse lei dice i soldi, per ora ci vuole una promessa, loro chiedono invece... No, ma il problema è di copertura, no? Noi adesso abbiamo raccolto, devo dire, Tremonti ha fatto anche i salti mortali, perché poi quando tu metti una parola all'interno di un decreto, volenti o nolenti, devi avere una copertura di bilancio già presente. Ora è inutile mettere adesso delle coperture che già non ci sono, ma bisogna andare a reperire, strada facendo, in un decreto che poi rischia di far saltare tutti i conti economici. Allora, secondo me, avere delle garanzie. Le garanzie, io, mostamente Mantini lo sa bene, sono 4-5 settimane che da quando il Senato stava per essere licenziato mi sto dando da fare. Sto dando da fare cercando anche di dare queste garanzie. Devo dire che ieri l'uscita anche di Palazzo Chigi con questa ulteriore precisazione è frutto di questo lavoro che stiamo facendo in maniera molto responsabile. I soldi per le seconde case, il 100% non c'è nel decreto, ma la precisazione a dire ci sarà una copertura. È un comunicato stampa di Palazzo Chigi, è un bel impegno. Allora, prima di andare da Mantini, pochi secondi, Bertolaso, lo sentiamo, ieri è intervenuto a 8:30 da Lilli Gruber, proprio su questa cosa, gli ha chiesto Lilli Gruber, ma insomma hanno senso o no le proteste di domani? Ovviamente Bertolaso parlava ieri e quindi fa riferimento temporale a Palazzo Chigi, al comunicato di ieri, sentiamo. Forse le avevano fino a questa mattina, perché ormai le ragioni del disagio, del dissenso, erano fondamentalmente due. Si chiedeva che dopo aver avuto la garanzia del ripristino completo del 100% del costo relativo alla ricostruzione della prima casa, venissero anche prese in considerazione le case dei non residenti, le seconde case. C'era discussione su questo, si riteneva che il decreto legge non fosse chiaro. Un comunicato stampa di Palazzo Chigi di questo pomeriggio ha sgombrato il campo anche a questo equivoco e in più ha garantito che tutti i sindaci dei 49 comuni interessati in modo principale dal terremoto avranno tutti i soldi necessari per far funzionare i servizi comunali che, alla luce della sospensione delle tasse, in questo momento sono in grande sofferenza. Allora, Mantini, avevano senso fino a ieri e oggi no queste proteste? Lei continua il digiuno invece? Beh, io spero di interromperlo oggi, nel momento in cui ci saranno i cambiamenti necessari al decreto legge, cioè il comunicato stampa diventa legge, perché le garanzie ai cittadini... Temo di no, questo decreto rimarrà così, cioè questo è stato... Vabbè, deciderò se morire, diciamo, o sospendere il digiuno, ma il punto non è questo, il punto è che si governa assumendo impegni con i cittadini sofferenti dinanzi ad un'immane tragedia con la legge, non con i comunicati stampa. Quindi qui non c'è una voglia di esasperata polemica, di conflittualità politica, anzi, al contrario, vi è sin dal primo giorno la massima collaborazione, come deve esserci dinanzi a queste tragedie. Abbiamo apprezzato tutti l'intervento di Bertolaso, del governo, la protezione civile, non è in discussione questo. È in discussione il fatto che a tutt'oggi chi ha avuto per esempio l'abitazione distrutta e il capannone industriale oppure il negozio o lo studio professionale, secondo l'ordinanza del governo è costretto a scegliere tra l'indennizzo dell'uno e l'indennizzo dell'altro. Per gli immobili produttivi sono garantiti al massimo indennizzi fino a 80.000 euro. Le case appunto dei non residenti, poniamo uno che abbia una casa di eredità oppure che abbia ristrutturato la propria casa nel centro storico ma non vive in essa, appunto è affidato l'indennizzo ad un comunicato stampa. La zona franca, cioè un regime agevolato per cercare di ricreare un tessuto produttivo, è finanziata con l'inezia di 45 milioni e nessuno potrebbe spostarsi solo per il 2009, nessuno potrebbe spostare un'attività o aprire una nuova impresa nel territorio che ha bisogno di ripresire su con la base di questi incentivi. Insomma, in buone parole, non vi sono certezze sulle cose fondamentali. I cittadini chiedono questo, che sia nella legge, non l'impegno speso, come giustamente dice Alessandri, non tutto si può spendere immediatamente, non c'è bisogno di tutti i soldi subito e via, ma c'è bisogno di diritti, non è una parolaccia. Diritti, legge, dignità non sono parolacce. Allora, io vorrei tornare per un attimo da Mattia Lolli all'Aquila, visto che siete in partenza. Lolli, io ho letto, anche un po' inquietato, forse proprio qualcuno del comitato 3 e 32 del vostro comitato, a dire per esempio questo piano case, che è l'acronimo della costruzione dei nuovi quartieri dove bisognerà ridare una casa, insomma, tutti gli sfollati. Siamo pronti a metterci davanti alle gru che costruiscono questo piano case, è così? Certo, perché questo piano case è stato comunicato alle autorità aquilane il secondo, dopo 2 o 3 giorni dal terremoto. Questo, a nostro avviso, secondo me fa pensare che forse questo piano case era anche già pronto. Noi abbiamo proposto fin da subito la soluzione di utilizzare casette di legno rimovibili, già pronto, cioè, di utilizzare la grande quantità di case sfitte. Prima del terremoto i costruttori aquilani lamentavano addirittura tra i 3.000 e i 5.000 immobili invenduti. Ma che vuol dire? Era già... A pensare a una soluzione di questo tipo, anziché consumare questa gran fetta di territorio espropriando le terre dei contadini, terre appunto che magari erano la loro unica forma di sostentamento. E tra l'altro ricordiamolo... No, ma mi scusi, cioè, perché le ha detto era già pronto questo? Perché vuol dire? Se era già, cioè, è stato ordito il terremoto? No, è un complotto, no, anche il questo. Il terremoto era semplicemente un piano speculativo di costruzione. Poi abbiamo sentito che già si parla di altre new town in Italia. Era un piano, appunto, all'inizio si parlava di un'unica new town. Sì. Era un piano speculativo di speculazione immobiliare che è stato applicato poi in questa determinata situazione. Perché si tratta di quartieri, questo è giusto che si sappia in Italia. Si continua a parlare di fantomatiche cassette. No, certo, sono questo quartieri, sì. Palazzi di 3 piani, sono 20 nuovi quartieri nel territorio aquilano, appunto, scelti in maniera veramente arbitraria, tra l'altro. Va bene, io intanto buon viaggio, insomma, andrete a Roma e non so, su questo piano speculativo su questo, guarda, dissento completamente. Comunque, insomma, lei qua, come vede, andate a Roma. Onorevole Alessandri, però devo chiudere in 30 secondi. Il decreto, comunque, lei conferma, credo l'abbia già detto, non c'è spazio per cambiarlo. Per il momento rimane quello, mi sembra di capire. Per il momento rimane questo, ma sicuramente, onestamente, tutte queste polemiche qua sono molto sterili e mi sembra molto politiche. Guardate che c'è stata una grande solidarietà. Io parlo anche da uomo del Nord. È stata fantastica, ancora adesso la gente mi chiede di poter dare una mano in Abruzzo. Fare queste polemiche sterili, come stanno facendo in questo momento, si rischia soltanto di dividere, e quando si divide poi alla fine diventa impossibile mantenere aperto l'attenzione sull'Abruzzo, e secondo me non si riesce a fare un buon lavoro, soprattutto per quelle popolazioni che oggi aspettano risposte per davvero. Ricordo che, come abbiamo fatto in 8 mesi per il decreto rifiuti di Napoli e altre emergenze, non è il primo e unico decreto, questo è l'inizio di un percorso. Tutte le garanzie le diamo oggi, poi quando avremo le coperture un pezzo alla volta andremo a farle. Oggi mancano tutto, per cui i soldi oggi non servono. Serve una garanzia vera e la stiamo dando. E il piano casa, mi faccia dire, sì, Guardate che se noi pensiamo, io ero al centro dell'Aquila, sono anche un tecnico del consolidamento, per cui me ne intendo abbastanza. Tra messa e sicurezza, puoi fare consolidamento, puoi ripristinare e rimettere in casa la gente, perché nel momento in cui tu non hai tutta l'area in sicurezza, anche se hai aggiustato un palazzo, non ci puoi rimettere dentro nessuno. Ci vorrà un sacco di tempo. Li lasciamo nelle tende o gli diamo invece un appartamento vero e proprio? Allora, fate fare una cosa che nessuno al mondo è mai riuscito a fare. Mi devo fermare qui, però, Alessandro. Finisco. Queste polemiche mi sembrano molto strumentalizzate e tendono proprio anche per come parlano verso una parte politica. L'ha già detto questo. Io credo che sia un grande danno che stanno facendo alla Bruxelles. Va bene, grazie a tutti, Angelo Alessandri, Pierluigi Mantini, due onorevoli, e Mattia Lolli, il comitato 332 che va a Montecitorio a manifestare. Tempo di pagelle dunque anche per i nostri parlamentari. Un osservatorio composto da cittadinanza attiva, controllo cittadino, Open Police, ha dato le pagelle da 0 a 10 ai parlamentari. Saluto Antonio Gaudioso, che è il vice segretario generale di Cittadinanza Attiva. Buongiorno. Buongiorno a lei, i nostri radioascoltatori. Allora, alle 10.30, tra due ore circa, svelerete questo rapporto, ma qualcosa ci può già anticipare? Ma io ho letto innanzitutto, leggevo oggi su Repubblica, già anticipato, non so, per esempio, si è preso come indicatori le presenze, gli interventi, le leggi presentate da primo firmatario, gli atti ispettivi, gli incarichi da relatore, scala da 1 a 10, chi raggiunge la sufficienza? Pochi. Beh, diciamo che non c'è una, diciamo, la parte di coloro i quali aggiunge la sufficienza è abbastanza bassa, molto bassa. E devo dire, da questo punto di vista, mi permetta prima di entrare nel merito poi dei dati, c'è un primo elemento che balza all'occhio. C'è una scarsa autorevolezza dell'istituzione, che secondo noi è legata anche al fatto che nel momento in cui non c'è un rapporto diretto tra elettore ed eletto, perché le persone, i deputati e i senatori sono di fatto nominati con questa legge elettorale, è ovvio che viene a mancare anche la capacità di fare da contrappeso. Basta, rispetto al governo, basta dare un dato: il 90% delle leggi approvate nell'ultimo anno sono di iniziativa del governo e solo il 10% del Parlamento, che è esattamente più o meno il contrario rispetto sì, a quanto... Sì, questo è un tema per cui alcuni parlamentari dicono ma insomma non serviamo a niente, non si lavora, è tutto imposto. Comunque vedo, per esempio, alla Camera, come gruppi parlamentari, l'Italia dei Valori è la prima come efficienza, ma 3,57, cioè 3,57 il voto in decimale, cioè da 0 a 10? Sì, 3,57, perché nella media... I nostri parlamentari purtroppo non danno il meglio di sé in quanto al combinato tra presenza e attività realizzata. Aggiungo anche un altro aspetto. Cioè, 3,57 e 3,5. Quando io ho preso un 3,5 in matematica sono volate... ma come sa c'è stata la riforma, quindi ora ce la si fa anche con voti più bassi, evidentemente. Anche perché poi c'è un altro aspetto in tutto ciò, che alla fine noi abbiamo contato anche un altro aspetto che, le dico, credo sia molto importante in termini anche di correttezza istituzionale, cioè il numero di assenze ingiustificate, che è importante, nel senso che nel momento in cui si assente in maniera ingiustificata, per cui senza collegamenti, commissioni istituzionali, eccetera, eccetera, credo che sia un altro dato rilevante da rimarcare. E due cose, un altro paio di aspetti interessanti sono che i gruppi in assoluto che emergono come i gruppi che lavorano di più, che sono più attivi, più impegnati, sono il gruppo dell'Italia dei Valori, quello della Lega Nord e il gruppo dei radicali all'interno del PD. Sì. Infatti io voglio fare i nomi, perché ci sono qui. Allora, tra i deputati, secondo questi parametri di appunto presenza, interventi, leggi presentate come primi firmatari, atti ispettivi, incarichi del relatore, tutto elaborato, vince come maggiore efficiente Angela Napoli del Popolo della Libertà. Poi Rita Bernardini dei radicali, il PD. Terza Gabriella Carlucci. Ma Gabriella Carlucci era quella che le Iene dicevano che non faceva niente. Brava Gabriella Carlucci. Terza invece. Poi Luca Volonté, quarto dell'UDC, e Elisabetta Zamparutti del PD. Gli ultimi, escludendo i ministri che sono impegnati, e questo è un altro grande tema, insomma, tengono due poltrone, eccetera, Denis Verdini, il coordinatore del PDL, Nicolò Ghedini del PDL, ma anche lui è un po', insomma, impegnato fuori, Massimo D'Alema, terzo, il PD, grandi nomi, questo alla Camera. grandi nomi, nel senso che da questo punto di vista c'è quasi l'impressione che da parte dei big il Parlamento conti poco, e se i soggetti che in altre fasi storiche invece erano più presenti perché garantivano l'autorevolezza dell'istituzione con la loro presenza non ci sono, che impressione possono avere i cittadini circa certo. l'importanza e l'efficienza? Noi ci crediamo nell'importanza del Parlamento e abbiamo deciso di accendere questo faro sulle istituzioni perché ci teniamo a che si rafforzi, non certo che bastino, come qualcuno dice, solo i capigruppo per decidere le leggi. Passiamo al Senato. Prima, come maggiore efficienza, Donatella Poretti, radicali del PD, poi Elio Lannutti dell'Italia dei Valori, poi Rosario Costa del PDL terzo. Ultimi, anche qui esclusi i senatori a vita, che alcuni sono anche un po' in là con gli anni. Primo, Marcello Pera, classifica negativa. Secondo, Beppe Pisanu. Terzo, Marcello Dell'Utri. Senta, Gaudioso, le donne meglio degli uomini, questo bisogna dirlo, sì. Avete fatto nettamente meglio, sì. Le donne più... le donne nettamente meglio, i cosiddetti e spesso bistrattati peones, quindi coloro i quali sono magari possono sembrare meno conosciuti, sono i più attivi, e i gruppi, non quelli più grandi, quelli più piccoli, dimostrano una maggiore coesione e una maggiore presenza. Questo mi sembra che siano tre cose importanti da rimarcare. La quarta è che, visto che ci siamo divertiti a rielaborare dati pubblici, perché tutti i dati che sono stati fatti sono tutti dati messi a disposizione dalla Camera e dal Senato, quindi è una rielaborazione di dati accessibili da parte di tutti i cittadini, ci dicono che noi continueremo su questo fronte anche nei prossimi anni, perché a questo punto ci teniamo a che gli ultimi magari facciano lavoricchino un po' più con gli esami di ripetizione. No, ma per chiudere, voto finale al Parlamento: più stacanovisti o più brunettiani, fannelloni brunettiani, di brunettian memoria? Purtroppo più brunettiani. Però credo che da questo punto di vista molto si possa fare strigliando e ricordando ai nostri rappresentanti istituzionali i propri doveri, ma altrettanto credo che bisogna fare cambiando rapidamente una legge che di fatto li rende quasi nominati. Allora grazie a Antonio Gaudioso, vice segretario generale di Cittadinanza Attiva. Oggi alle 10.30 verrà presentato pubblicamente questo rapporto con tutti i nomi, quindi insomma magari anche sui giornali qualcosa oggi trovate già su Repubblica, ma sui giornali domani avranno sicuramente più spazio. Ci fermiamo qui. Alessandro Marco Tulli e Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Tra poco Giuliano Ferrara, parliamo con l'elefante, parla del viaggio del presidente Berlusconi in America con il presidente americano Obama. Noi ci sentiamo domattina.